9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Benissimo, buon venerdì 20 gennaio di questo 2012, anche oggi cominciamo con i Doors, sapete perché, non ve lo spiego più. E prima di arrivare al tema della trasmissione, che come abbiamo lanciato è quello relativo all'approfondimento di uno dei punti toccati dal provvedimento di apertura del mercato alla concorrenza atteso per oggi dal Consiglio dei Ministri, cioè quello degli ordini professionali, e in particolare poiché uno dei 5 punti fondamentali dell'intervento sugli ordini professionali è l'abolizione delle tariffe, delle tariffe minime. Ci chiederemo insieme ai rappresentanti delle professioni, oltre a un giudizio sull'intervento che li riguarda, se a loro giudizio non sia ipotizzabile un trade-off, uno scambio tra abolizione delle tariffe e revisione fondamentale degli studi di settore con i quali essi pagano le tasse. Qualche rapido cenno, come sempre facciamo, a quello che ci ha colpito dei giornali internazionali in relazione al tema per il quale apriamo poi ogni volta e chiudiamo ogni giorno, anche oggi, con i Doors the End, cioè l'eurocrisi. Allora, degli articoli più rilevanti, pochissimi, che voglio segnalarvi da questo punto di vista. Innanzitutto il report che trovate sul Financial Times, approfondito e desunto da un approfondimento di Morgan Stanley sulla situazione del sistema bancario europeo, con un giudizio, un assessment molto approfondito degli effetti che ha avuto l'asta triennale di liquidità tenuta settimane fa dalla BCE, e che vengono rivalutati in positivo da Morgan Stanley e dal Financial Times di oggi, poiché tutte le diverse quote parte dei sistemi bancari nazionali che sono approvvigionati di liquidità, troverete lì una graduatoria per la quale le banche italiane si sono rifornite per più di 50 miliardi all'asta, e 50 miliardi Morgan Stanley valuti che sia oltre il 90% delle loro necessità di funding, di rifinanziamento, di acquisizione di liquidità. In realtà questa stima è un po' ottimistica perché è maggiore, ma comunque non c'è dubbio che quei 50 miliardi hanno dato un ottimo inizio d'anno alle banche italiane. E la previsione che fa Morgan Stanley, che è fatta proprio dal Financial Times, è che l'asta nuova triennale di liquidità a collaterali estesi, che si terrà il 28 di febbraio, dovrebbe essere, questa prospettiva, a differenza di quello che si immaginava fino a pochi giorni fa, non ancora più ricca, con una fila ancora più lunga di banche europee che chiedono soldi, ma probabilmente, per quanto comunque rilevante, forse meno con una pompa di liquidità, per così dire, meno vigorosa, il che, dice Morgan Stanley sul Financial Times, rappresenterebbe un cospicuo segnale che il peggio per il sistema bancario forse è alle spalle. Vedremo da questo punto di vista come, dopo la chiusura dell'aumento di capitale di Unicredit, le banche italiane alle quali l'autorità europea aveva chiesto di ricapitalizzare, perché non intendono farlo, d'accordo con la Banca d'Italia, ricorrendo a misure sul capitale ibrido e così via. Vedremo per queste banche poi quali saranno gli effetti reali nel concedere credito a imprese e famiglie, perché io credo che invece il credit crunch resterà, e a maggior ragione per le banche italiane, che per non fare diluire i loro azionisti, perché questa è l'unica ragione, non seguiranno l'input dell'autorità europea. Non vorrei che, per non far diluire gli azionisti, in realtà il taglio degli impieghi a famiglie e imprese italiane continuasse. Poi è interessante sulla Süddeutsche Zeitung che il commissario Olli Rehn chieda alla Germania, quindi ci sono anche membri della Commissione europea che alzano la voce nei confronti dei tedeschi, di fare una specie di scelta: o tra una dotazione di capitale all'ESM, il fondo salva stati che subentrerà all'FSF, o Eurobond, ma non si può continuare a dire di no o all'una o all'altra cosa. Questo sul Süddeutsche Zeitung, che diciamo nel panorama dell'editoria tedesca è un pochino è più vicino al centro-sinistra. Mentre Financial Times Deutschland, qui c'è interessante notare il ministro del bilancio spagnolo, Cristobal Montoro, che dice che il suo paese non sarà in grado di rispettare l'obiettivo di deficit previsto nel 2012 per il 4,4% del PIL, e dice: del resto non credo che la Spagna sia sola, tutte le previsioni che ci sono e gli obiettivi che ci sono stati assegnati in questo anno e nel biennio successivo non scontano il rallentamento dell'economia reale, e quindi ecco che la Spagna sta implicitamente sta annunciando che farà una correzione per il ciclo dei suoi obiettivi, esattamente quello che Mario Monti ha chiesto alla Germania di porre come nuova regola, e la Germania per il momento ha detto semplicemente si conta il rientro del debito pubblico da un anno dopo, ma per il resto non c'è una correzione per il ciclo. Ecco, io mi fermerei qua perché sennò la faccio troppo lunga. Io ricordo a tutti, e veniamo al punto di oggi prima di presentarvi i nostri ospiti, che in materia di ordini professionali, 5 punti fondamentali del provvedimento dovrebbe essere l'abolizione delle tariffe professionali. Ricordo che fino al 2006 le tariffe di riferimento erano addirittura obbligatorie e inderogabili, poi ci sono stati diversi interventi successivi, ma con la misura di oggi dovremmo assistere all'abolizione delle tariffe professionali. Poi l'obbligo di presentare al cliente un preventivo, una apertura a società professionali con soci non professionisti, questo riguarda la forma costitutiva e organizzativa degli studi professionali. Infine, quarto punto, i tirocini durante l'università. Quinto punto, formazione senza l'esclusivo controllo degli ordini. Da questo punto di vista le posizioni dei 26 ordini sono abbastanza diversificate. Ci sono ordini per i quali ovviamente la misura dell'abolizione delle tariffe professionali ha meno rilievo piuttosto che per altre, come invece per gli avvocati, per i quali ha rilievo. E la cosa che chiediamo oggi è se non si debba pensare, non sia interessante pensare, in cambio dell'abolizione delle tariffe, per esempio a una modifica immediata anche della maniera con cui, con indicatori sintetici, poi si elabora la congruità fiscale con gli studi di settore. È ovvio che se questa misura ha un senso e verrà confermata la realtà, come io immagino, nella sua applicazione concreta diventerà ancor meno possibile effettuare dei criteri generalmente validi per tutti in base ai quali elaborare gli studi di settore. Quindi ci permettiamo di chiedere questa cosa, come mettere sul tavolo una maniera in più di rendere conveniente questo intervento. Sul quadro generale degli interventi di oggi previsti nel provvedimento del governo, io dico solo, ma questo ne parleremo una volta adottati, che in me le delusioni prevalgono sulle soddisfazioni, perché io vedo che la parte rilevante che riguardava i giganti di Stato, cioè Poste e Ferrovie, è praticamente sparita, perché quella di Ferrovie è demandata a un'autorità delle reti innestata su un'autorità dell'energia, l'abbiamo detto ieri, che non mi convince proprio per niente. La parte della separazione proprietaria per la distribuzione del gas Enisnam, a stamattina ancora non sapevamo se era solo per la rete distributiva o se per tutto Snam, e ignoravamo ancora i termini concreti dei mesi entro i quali questo provvedimento dovrebbe essere adottato, in termini non autorativi in questo decreto, ma di nuovo rimandato a un esame dell'autorità. Non mi piace che siano saltate di nuovo le norme vere sulla liberalizzazione delle vendite commerciali, siano state molto molto molto ristrette. Non mi convince l'impostazione con la quale si disarticolano le integrazioni verticali delle società per la distribuzione del carburante, né per gli agenti monomandatari a assicuratori, perché temo che gli effetti più li pagheranno i clienti e non effetti meno. Quindi, come vedete, io sono un incontentabile, lo ammetto. Avrei preferito interventi molto più rilevanti sui giganti pubblici, tanto per cominciare, poiché, e qui ho concluso, la mia opinione è che, per esempio, Poste e Ferrovie andrebbero privatizzate. E siccome andrebbero privatizzate, perché da 20 anni in Gran Bretagna non c'è un treno pubblico, la rete è pubblica, la rete l'hanno ripubblicizzata, ma non c'è un treno pubblico e la domanda e l'offerta sono aumentate, mentre noi abbiamo la difesa del tutto pubblico, una difesa di chi ci lavora dentro, abbiamo iperfinanziato nei decenni queste società e in cambio non ne otteniamo un aumento della domanda, dell'offerta e della produttività, come invece è avvenuto nei paesi in cui questo è avvenuto. Comunque, da questo punto di vista, trovate tutti gli approfondimenti sul Sole di oggi e permettetevi anche di segnalare su Repubblica di oggi una riflessione approfondita su ciò che manca tra le tante cose in questo governo, cioè ancora le privatizzazioni. E lo dico perché abbiamo tra gli ospiti di oggi, anche se in un'altra qualità, esattamente chi firma su Repubblica questo approfondimento, perché abbiamo qui con noi Alessandro De Nicola, avvocato, presidente della Smith Society, editorialista del gruppo Repubblica Espresso. Buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno dottor Giannino. Allora, abbiamo poi con noi Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, che in questi giorni sta seguendo e battendo esattamente questo versante per informare i lettori del suo giornale. Buongiorno Barbera. Buongiorno anche a Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che è spesso ospite nostro. Buongiorno. Buongiorno a lei che ci ascolta. Siciliotti, cominciamo da lei. Ci dà un giudizio complessivo dal punto di vista dei suoi associati su questo ennesimo intervento in materia di professione, visto che poi l'intervento più recente era solo la scorsa estate nelle manovre del governo? Sì, guardi, la prima riflessione che mi sento di fare, allora, liberalizzare significa eliminare i vincoli all'accesso e favorire la concorrenza. Di per sé la liberalizzazione non è un fattore di crescita, ma è un moltiplicatore di crescita. Quindi se la crescita non c'è, diciamocelo chiaro, le liberalizzazioni servono a poco. E in questa situazione in cui lo denunciamo, noi vediamo rigore a senso unico, cioè rigore nella caccia all'evasione, non altrettanto rigore nella caccia agli sprechi e alla corruzione. Noi siamo in una situazione in cui lo Stato si sta mangiando il Paese e quindi attenzione che in questa situazione le liberalizzazioni servono a poco, perché se non ci sarà crescita, liberalizzare serve a poco. Detto questo, perché questo è poi il contesto, perché dobbiamo discutere anche di priorità, non soltanto di interventi giusti. Io, per quanto riguarda le professioni, lo dico con chiarezza e mi confronto volentieri con gli ospiti che conosco e apprezzo, qui la riforma delle professioni in senso liberale c'è già stata, si tratta di applicarla, è quella dell'estate scorsa, quella che dice 7 principi che a mio giudizio sono oggettivi, obiettivi, molti di questi commercialisti italiani li hanno fatti da tempo, ma questo se vogliamo è un merito dei commercialisti, non un demerito del decreto. Si dice accesso libero o comunque non contingentato se non in caso di pubblica necessità, tariffe non vincolanti, pubblicità libera, formazione professionale continua obbligatoria, assicurazione obbligatoria, funzioni disciplinari separate dalle funzioni di rappresentanza, tirocinio già durante il periodo di formazione universitaria. Questi sono i principi che bisogna applicare e il lavoro che dobbiamo fare è in questa direzione. Io a questo giudizio, quando si dice che le tariffe non sono vincolanti, che significato ha, mi domando, oggettivo, abolirle? Che senso ha? L'importanza è non renderle vincolanti, ma abolirle mi pare una sorta di giustizialismo giuridico incomprensibile. Le sottolineo per dire il governo, questo governo, fa un decreto legge 212 e per la disciplinare la composizione delle crisi in caso di sovraindebitamento, quello che è stato definito volgarmente fallimento light, cioè i piccoli, composizione delle crisi dei piccoli, privati e piccoli imprenditori. Questo decreto è del 22 dicembre, quindi di questo governo. Cosa dice l'articolo 11? Una cosa semplice, del tutto logica. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti. È logico che sia così. Allora che fine fa questo articolo 11 che questo stesso governo ha introdotto? Che fine fa? Mi sembra veramente, non riesco a capire la portata di questa cosa. Potrei dire andiamo avanti, il preventivo scritto, ma questa è una liberalizzazione o un over regulation? Cioè stiamo parlando di semplificare e liberalizzare, non stiamo imponendo una cosa in più. Le società professionali, lei l'ha detto, bene, a me non interessa la forma della società, o meglio mi interessa, ma ci sono due principi cardine che valgono in tutto il mondo, nei paesi più liberalizzati. Il socio non professionista, che è giusto che ci sia, non deve né amministrare né svolgere l'attività, perché altrimenti snaturiamo. Queste due cose devono essere garantite. Per quanto riguarda la formazione professionale continua sottratta al controllo degli ODI, benissimo, e chi controlla? Se la risposta è nessuno, penso che facciamo un passo indietro. Se la risposta è qualcun altro, mi si dica chi. Cioè, mi sembra che ci sia, come dire, un furore ideologico in queste cose. Guardi, i commercialisti italiani hanno le tariffe non vincolanti da 12 anni. Da 12 anni. Dall'anno 2000, quindi cioè, ora ci tocca pochissimo, perché abbiamo capito benissimo che non si va in quella direzione, ma si ha la sensazione che in un paese in cui le priorità sono altre e bisogna far dimagrire la macchina dello Stato, che invece si allarga progressivamente, perché non ci sarà mai riduzione della pressione fiscale, mai crescita, ci si accanisce con liberalizzazioni che, come già lei ha detto, per Poste e Ferrovie, ci si accaniscono sui tassisti o su vicende ideologiche che riguardano i professionisti. I professionisti, 15% del PIL nazionale, 2 milioni di addetti senza protezioni. Quanto poi, e finisco, allo scambio con gli studi di settore ci può anche essere, ma gli scambi, perché è logico evidentemente, ma nel momento in cui le tariffe non sono indicative dovrebbero scomparire anche da quei tipo di calcoli. Comunque può anche starci, ma non può starci basato su una cosa che è ingiusta in partenza. Concludo, il ministro Severino, noi abbiamo avuto un incontro lunedì scorso, ha detto che avrebbe previsto una revisione formale sulle tariffe, dicendo che comunque restano come parametro di riferimento per il giudice in caso di controversia. Quindi proprio abolizione non avrebbe dovuto essere e non dovrebbe essere. E se restano come parametro per il giudice, resteranno come punto di riferimento per tutti, non obbligatorio, rispetto al quale mi sembra che sia soltanto una misura di buon senso. Credo anch'io che se la soluzione è quella di farle rimanere in buona sostanza vigenti, evitando al giudice quindi di pronunciarsi nel merito, rimangono poi punto di riferimento generale. Avvocato De Nicola, lei che dice di questi 5 punti di fondo dell'intervento annunciato sugli ordini professionali e anche dell'ipotetico scambio meno vincolante studi di settore? Diciamo che ho abbastanza simpatia per le posizioni del presidente Ciciliotti, anche perché fra tutti i vari presidenti di ordini professionali mi è sempre sembrato quello un po' più aperto alle ragioni dell'economia e non solo alle ragioni della corporazione. Tra l'altro, rappresentando lui una corporazione, questo è ancora più meritorio. Solo due piccole così precisazioni. Sulle società di capitali sono d'accordo anch'io che ovviamente se sono società professionali chi fa il servizio professionale, chi svolge il servizio professionale non può che essere il professionista, su questo sono d'accordo. Quanto all'amministrazione, lì dipende, perché ad esempio nel Legal Services Act inglese entrato or ora in vigore da un mese, si prevede che anche nel consiglio d'amministrazione ci possano essere dei non professionisti, il che ha senso, perché un conto è svolgere il servizio professionale e quindi la causa in tribunale la fa l'avvocato e non la fa l'architetto né tantomeno il manager. Un conto invece è l'amministrazione dal punto di vista della gestione economica della società di capitali. E lì non ci trovo niente di male a che nel consiglio d'amministrazione o anche nell'amministratore con delega alla gestione economica, sia un non professionista ma un esperto manager. La seconda cosa, ho anche simpatia con il dubbio che il fare obbligatoriamente il preventivo scritto in realtà poi sia una liberalizzazione di regista. Per lei, dottor Giannino, che ama il soggetto, è una posizione un po' costruttivista, cioè impongo la liberalizzazione attraverso. Questo deriva però da un fatto: se noi lasciassimo le tariffe come definizione dell'onorario in mancanza di accordo, la pratica nell'80% dei casi del rapporto tra cliente, soprattutto cliente persona fisica e professionista, è che ci mettiamo d'accordo dopo, oppure si va dall'avvocato, si va dal commercialista, si espone il problema, dall'architetto, dall'ingegnere, e dopodiché, per motivi, se vuole, così formali, di educazione, di com'è la prassi in Italia, di soldi si parla dopo. Allora, se di soldi si parla dopo e quindi non c'è un accordo preventivo e in mancanza di accordo o in mancanza di definizione si applicano le tariffe, beh, questo diventa una scappatoia semplice, perché basta a un certo punto dell'opera non trovare l'accordo su l'onorario, e beh, a quel punto quantomeno l'attività che è stata già svolta bisogna retribuirla e si applicano automaticamente le tariffe. Quindi l'obbligo deriva da questa situazione di fatto. Anche a me non è molto simpatico, penso che si potrebbe trovare qualche alternativa a questa, anche perché non è semplice fare dei preventivi precisi. Per gli avvocati fare un preventivo su una causa, sapendo quali sono i tempi della giustizia, gli intoppi, le possibili i ricorsi, le udienze, non è semplice. Quindi ho anche appunto la consapevolezza di questo, così come per gli avvocati penalisti non è semplice fare il preventivo scritto quando il proprio cliente è stato arrestato in flagranza. E che si fa? Si fa l'arrestato in flagranza e si dice: questo è il preventivo, firma. E ci mancherebbe pure che non firmasse chi è intanto in galera. Quindi alcune attenzioni su queste cose penso anch'io che siano necessarie. Sono, però, avvocato Nicola, il punto resta o no il punto che se poi le tariffe non vengono abrogate per la liquidazione giudiziale, allora a quel punto in realtà l'abolizione diventa un'abolizione un po' finta, o no? Beh, non necessariamente, perché se c'è l'obbligo di mettersi d'accordo prima tra cliente e avvocato, diciamo, o anche commercialista, perché i commercialisti difendono nelle commissioni tributarie, e quindi avvocato e commercialista si mettono d'accordo per 100, poi chi vince ha diritto al rimborso delle spese e il giudice dice che c'è un diritto a 50 oppure c'è un diritto a 70, l'accordo tra cliente e commercialista avvocato rimane 100 e rimane tale anche se è 120 o 150, la differenza andrà al cliente. Allora, quindi il suo giudizio il suo giudizio resta moderatamente positivo, ma più positivo che moderatamente, mi pare di capire. No, moderatamente positivo, basta che sia interpretato nel senso che la volontà delle parti è sempre quella prevalente, sempre quella prevalente, perché le parti, meglio di ogni altro, meglio del legislatore o di un burocrate illuminato, sanno qual è il loro interesse. Quindi in mancanza di accordo il giudice può anche fargli comodo avere un qualche tipo di parametro per determinare, è innegabile. Basta che il principio della volontà delle parti prevalente e che la legge debba mettere in condizione le parti di mettersi d'accordo prima, che quindi ci sia un incentivo a discutere il compenso e a mettersi d'accordo prima, altrimenti si ricade nel problema che ho detto, che per buona creanza non si parla di soldi e alla fine si applica la tariffa. Se rimangono saldi questi due principi, avere qualche parametro di riferimento può anche essere utile per abbattere i costi di transazione. Va bene, io penso che per esempio l'obbligo di preventivo sia una di quelle classiche dimostrazioni di paternalismo di Stato di cui vedo parecchi segni anche in queste misure concorrenziali. Dirigismo e paternalismo, le liberalizzazioni dovrebbero essere qualcos'altro, cioè lo Stato deve fissare lui il numero di farmacie, visto che qua siamo a un numero fisso di farmacie che aumentano. La mia risposta è no, ma ovviamente questo capisco che impatti contro un grandissimo, fortissimo pregiudizio, perché ieri sollevato questo tema, la risposta è: chi altro lo deve fissare se non lo Stato? Abbiamo proprio due idee diverse rispetto a molti nostri ascoltatori, forse alla maggioranza di chi ci ascolta, di che cosa debba essere per voi e soprattutto non essere per me lo Stato. Detto questo, adesso andiamo in pubblicità. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in studio. Lo sapevo, molti ascoltatori non sarebbero stati convinti dal mio critiche al dirigismo e al paternalismo di Stato di cui restano impregnati questi provvedimenti. Ad alcuni di loro dico: secondo voi, sul totale di quello che spendete, per esempio, come automobilisti, quello che conta di più è davvero in autostrada il maxi profitto di cui siete convinti il titolare di concessionario privato ancora sia propria? Faccio presente che è il settimo anno di seguito che noi rimettiamo mano ogni anno all'impianto delle concessioni e alle tariffe, ogni anno. Pensate, imprese private che si trovano ogni anno, lo Stato che si rimangia la parola di quello che ha scritto l'anno prima sul tipo di contratto e sulle condizioni per fare flussi di cassa che sostengono la redditività di un'impresa. Ogni anno questo capita a chi fa quel mestiere lì. Ma voi siete convinti che il maggior onere dalle vostre tasche esca per gli extra profitti ipotizzati sul concessionario privato, oppure perché lo Stato vi affonda doviziosamente le mani, ma naturalmente in questo provvedimento non lo dimostra, con le accise per ogni litrazzo di benzina o di gasolio che vi mettete dentro? Vi rendete conto che lo Stato sulla rapina vera che compie i vostri danni come sempre non interviene e vi devia far pensare che ancora una volta sono i cattivi, i privati, ma certo che vi rapinano e così via? Faccio questo esempio perché è di una, a mio giudizio, dovrebbe essere unitaria la risposta, no? Come si fa più crescita? Certo, io rimarrò sempre un liberalizzatore, però l'incentivo più immediato è l'abbattimento del cuneo fiscale e delle tasse con severi tagli di spesa. Ce n'è traccia nell'impostazione di questo governo? Io ho sperato di sì, l'ho sostenuto questo governo e non rimpiango quello che aveva perso ogni credibilità precedente, ma non c'è traccia di questo neanche con i tecnici. E se neanche i tecnici tagliano le spese e abbassano le tasse, ma al contrario non fanno altro che alzarle, la crescita come volete che ci sia? Da questo punto di vista ha ragione perfettamente, secondo me, Claudio Siciliotti, che ricorda che le liberalizzazioni sono un moltiplicatore. Se poi la crescita resta negativa, puoi aprire e abbattere quello che vuoi, solo nel lungo periodo ci sarà qualcosa in più, ma non è un addendo immediato. L'addendo immediato, come sappiamo, qualunque libro di politica economica prendiate in mano, è l'incentivo fiscale. Qui c'è solo aggravio. E ripeto, in alcuni di questi provvedimenti di oggi, che nel complesso comunque io saluto positivamente, c'è un dirigismo e un paternalismo fatto apposta per non farvi pensare alla rapina, di cui lo Stato ogni giorno si rende purtroppo colpevole ai vostri danni, della vostra crescita e di quella dei vostri figli. Giudizio che non so se Alessandro Barbera condividerà con questa durezza. Che dice il collega della Stampa? Ma in gran parte le tue ragioni sono condivisibili, anche se i toni secondo me sono eccessivi. Faccio un passo indietro perché questo può aiutare a capire come la penso. Sulla questione del preventivo, è vera, stiamo parlando del preventivo dei professionisti, è vero che si tratta di una norma dirigista, però è altrettanto vero che ci dimentichiamo che questo paese, oltre ad aver bisogno di maggiore libertà economica, è un paese nel quale le regole non vengono rispettate. L'altro giorno ne parlavo di questo argomento con un importantissimo avvocato che svolge anche funzioni istituzionali, mi diceva che quella norma è giusta perché in Italia si sa che i professionisti spesso dicono: ma sì, venga da me, parliamone, soprattutto quando si tratta di grosse cause, magari cause penali, e poi alla fine, come dire, il prezzo che il cliente si trova a pagare spesso non si capisce mai qual è, quale sarà, quando finirà la causa. Quindi insomma è un paese un po' complesso il nostro, ha bisogno di più libertà economica, ma io credo anche un po' di regole certe. Per quanto riguarda la questione delle... Pronto? Eccoci, per quanto riguarda? Per quanto riguarda la questione delle tariffe, io mi sono andato a riprendere, il presidente Siciliotti prima diceva che secondo lui abolire le tariffe minime è sbagliato. Beh, mi dispiace per lui perché, come dire, se non so se l'ha letta, la relazione introduttiva al decreto del governo, beh, riconosce al dottor Siciliotti un enorme merito. Dice che cita un documento dell'antitrust secondo il quale gli onorari dei commercialisti fra 2009 e 2010 sono scesi complessivamente per atto tipo, grazie al fatto che l'ordine dei commercialisti si è adeguato ai rilievi formulati dall'autorità antitrust in merito alla portata restrittiva di alcune norme del codice deontologico. Quello stesso rilievo della relazione che riconosce questo agli ordini commercialisti non riconosce la stessa cosa agli avvocati, e dice infatti che per gli avvocati a partire dal 2000 c'è stato aumenti delle tariffe minime chiaramente connessi con la fissazione autoritaria delle tariffe, che hanno cominciato a scendere solo dopo il 2006, quando l'allora governo Prodi quelle tariffe le abolì. Ricordiamo che poi quelle tariffe nel 2010, l'anno scorso, il governo Berlusconi l'ha reintrodotte. Quindi io credo che invece l'abolizione delle tariffe minime sia giustissima, che io non credo sia un problema il fatto che il giudice possa autoritativamente o meno possa in qualche modo dire la sua sulla entità degli onorari, anche perché non stiamo parlando solo degli onorari degli avvocati. Io penso ad esempio alle tariffe minime dei notai. Perché un notaio deve chiedere per un atto semplice come è un contratto di mutuo qualcosa come 2000 euro? È giusto che ci sia più concorrenza fra i notai, che i notai possano, soprattutto i più giovani, scegliere di far pagare meno per entrare in maniera più compiuta dentro al mercato più rapidamente. Io credo che complessivamente il pacchetto sui professionisti alla fine è fra le cose migliori di questo pacchetto. Credo anche che sia giusta la norma sulle società di capitali, perché la verità è che gli avvocati lamentano spesso il fatto che c'è troppa concorrenza fra di loro, che in realtà ci sono fin troppi avvocati, ma la verità è che il problema è esattamente lì, nella incapacità delle grandi strutture, di tre giovani brillanti quarantenni che vogliono mettersi in società per fare concorrenza a un grande studio, ebbene oggi non lo possono fare perché prima di arrivare ad essere degli stimati professionisti devono passare dalle forche caudine di un grande studio dove molto spesso devono fare un tirocinio pagato 0 lire. Va bene, iniziamo a sentire come la pensano un po' di ascoltatori. Gennaro da Napoli. Buongiorno, senta, il preventivo è una vera follia, è assolutamente impraticabile, nel senso che l'avvocato non può mai prevedere quale sarà la durata del processo, quale saranno le eventuali impugnazioni. Del resto, se ci sono 3 gradi di giudizio, è proprio perché si sa che un giudice può valutare la norma o può valutare un fatto in maniera completamente diversa. Come faccio io a dire? Io non è che vendo 1 chilo di patate, io vendo una prestazione che non so come si evolverà nel tempo. Allora cosa succede? Accaparro il cliente, poi cerco di tagliare e di chiudere il più rapidamente possibile, non faccio copie, non mi preparo, non studio, e alla fine chi va in galera sempre il poveraccio. Questo, alla fine il discorso è questo. Cioè qui bisogna rendersi conto che comprimere i costi porta necessariamente ad un abbassamento della qualità dell'assistenza. C'è poco da fare. Poi le tariffe minime nei fatti non ci sono già regolate dal mercato. Non è assolutamente vero, le tariffe minime venivano applicate soltanto nei confronti delle grandi aziende che sono le uniche che hanno beneficiato di queste cosiddette liberalizzazioni, che sono servite soltanto a banche e assicurazioni per tagliare i costi dell'assistenza legale. Punto. Il privato non ne ha cavato assolutamente nulla, non c'è stato assolutamente nulla di liberalizzante, c'è stato soltanto un regalo come al solito ai potentati economici e finanziari. Questa è la verità. Gennaro, guarda, su questo, siccome capisco che il sottinteso è che siccome siamo la radio di Confindustria e così via, questa è come l'accusa che spesso riecheggia, in questo anche commercialisti hanno fatto, ne abbiamo parlato molte volte col presidente Siciliotti, dice: ah, la grande impresa, la Confindustria, in realtà vuole spodestare i professionisti e organizzare al suo interno servizi professionali concorrenti, così abbatte i suoi costi e anzi ci fa concorrenza. Allora, su questo tema, che viene utilizzato a volte un pochino anche con il tono di dire i potentati, eccetera, eccetera, e su questo tema c'è una questione di fondo, perché l'efficienza, ogni perimetro più o meno esteso, consente di fare sinergie, tra i quali anche i servizi professionali. Il riflesso condizionato per il quale i sacri ordini professionali sono solo esclusivamente coloro che devono dare i servizi, eccetera. E se poi vogliamo entrare in un mondo che ha minimamente a che fare con la modernità economica e con appunto la concorrenza, ci sta che invece chi fa più sinergie offre anche, finisce anche per avere standard diversi e possibilità diverse di fruizione, ma anche di offerta e di organizzazione all'interno dei servizi professionali. È sempre stato così, o no? Quindi non credo che sia tanto questo il punto delle tariffe, però io rispetto un punto di vista che so essere molto radicato all'interno degli ordini italiani. Abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. E ripartono i Doors, ripartono i Doors, this is the end. Non sarà la fine però per queste misure di liberalizzazione. Molti mi dicono davvero incontentabile, critichi troppo, ma insomma l'avete voluto, le liberalizzazioni sono le vostre cose. No, io non si tratta di essere incontentabile. Sicuramente su poste, ferrovie, energia anche, perché ci crederò quando lo vedrò, è un rinvio a una decisione prossima di un'autorità, questa sul SNAM, non è la cosa che secondo me era legittimo attendersi, questo lo dico con grande sincerità. Stabilire l'aumento del numero di farmacie, di notai a tavolino, dicendo che quella concorrenza non mi convincerà mai. Sui taxi vediamo, perché anche lì mi pare di capire che tutto questo cancan è stato fatto per dire che in 3 città di qui a X tempo l'autorità dirà che cosa fare. Forse se si diceva questo fin dall'inizio si evitava anche la protesta, perché per il momento non cambia niente, per essere chiari. Vediamo come la pensa Pietro da Trieste invece dei temi di cui stiamo parlando oggi. Buongiorno Oscar. Prego Pietro. No, il fatto che questo governo non voglia cambiare niente, sono d'accordissimo con la sua impostazione, la si vede da un punto principale. Con gli avvocati, se si volesse fare una vera liberalizzazione, bisognerebbe cambiare l'impostazione e passare da un'obbligazione di un fare per l'avvocato, per cui lo paghi lo stesso anche se ti fa perdere la causa, a un'obbligazione di scopo. Se facessimo, se portassimo le cose pagando gli avvocati su base success fee, come fanno negli Stati Uniti, io ho lavorato là per un anno e quelli là sono veramente maestri in questo, avremmo tanto da imparare, si ridurrebbero le cause, i tribunali sarebbero veramente decongestionati, ci sarebbero meno cause e i clienti pagherebbero meno. Allora, Pietro dice facciamo l'americana, che dice De Nicola? Sì, sì, ottimo. Questo però con l'abolizione delle tariffe, grazie a Dio, è possibile farlo a questo punto, nel senso che anche se rimangono solo come residuali, comunque se la volontà delle parti è quella che si viene pagati di quanto si recupera, non in tutte le cause questo è possibile, perché in una causa, chiaro, ad esempio... Aia, mi sa che c'è un problema di linea. Comunque l'avvocato De Nicola, come immaginavo, dice senza tariffe obbligatorie potremmo, si può anche offrire al cliente, se naturalmente la causa lo consente, una soluzione all'americana per al risultato ottenuto, per così dire. Sentiamo come la pensa Pasquale da Catanzaro. Prego Pasquale. Buongiorno, io sono un giovane ingegnere e chiamo perché mi sembra quasi che in Italia si abbia l'abitudine di generalizzare e di fare di tutto l'erba un fascio. Intanto liberare le professioni non significa, non è così semplice. La professione di ingegnere e di architetto è sicuramente diversa da quella dell'avvocato. Non c'è dubbio. È una cattiva abitudine di pensare che togliere il tariffario minimo risolve il problema, è veramente shock banale. In quanto io le posso assicurare che nella mia città il fatto che già le tariffe non sono obbligatorie ha avvantaggiato i vecchi architetti e ingegneri della città, che assoldano 10-15 giovani laureati e li fanno lavorare con stipendi da fame. Il problema non è questo, il problema è garantire la qualità del servizio che il professionista dà. E poi, guardi, la parcella viene fuori da sola, perché io mi trovo, per esempio, nelle certificazioni energetiche a fare un lavoro dettagliato e trovo colleghi che se la pagano 50 euro, cioè io ci lavoro una settimana e non riesco a pagarmela 50 euro. Se la pagano 50 euro perché, come dice spesso lei, lo Stato non controlla, lo Stato non è presente, cioè, o meglio, è presente soltanto per chiedere le tasse, ma dove deve assolvere il suo servizio di controllo sulla qualità del servizio non c'è. E quindi questa è una cosa grave. Io chiederei a questi benedetti professori di fare i professori fino in fondo, cioè di lavorare in maniera un po' più oculata sugli argomenti. Grazie. Grazie a lei. Immagino, posso chiedere al presidente Siciliotti, in ogni caso, l'interlocuzione che avete avuto in questi giorni con il governo, il ministro Severino, in realtà all'inizio era molto infastidita dalla prima impostazione, ha ottenuto poi qualche cambiamento. Ma qual è il giudizio che dà dell'interlocuzione che questo governo vi ha offerto rispetto ai precedenti, Siciliotti? Ma guardi, io ho partecipato a una molteplicità di incontri col governo, con i vari governi che si sono succeduti. Normalmente sono incontri frustranti, perché si è sempre tutti d'accordo, ordini e governo, e non si va mai avanti nella direzione rispetto alla quale pur si condivide. Questo è il punto. Cioè, noi siamo in attesa di una riforma delle professioni, credo da 15 anni, è una sorta di Salerno-Reggio Calabria eternamente incompiuta, perché, ed è ancora più frustrante notarlo, perché l'incompiutezza non dipende da una diversità di visioni, anzi dall'assoluta consonanza di cose. Anche quest'ultimo incontro, nella sostanza, cioè, adesso io ho ascoltato tutte le osservazioni e devo dire ringrazio gli apprezzamenti che ci sono stati rivolti. Noi siamo partiti nell'anno 2000 dicendo non ha senso che le tariffe siano vincolanti. Vero. Perché è un mezzo per impedire ai giovani di entrare sul mercato, e quando fanno prezzi inferiori addirittura sono sanzionati disciplinarmente. È una follia. Anno 2000, 12 anni fa, i commercialisti. Poi ci siamo detti la pubblicità deve essere libera, non consentita, ma libera. Abbiamo fatto il codice deontologico portandolo all'antitrust, e all'allora presidente dell'antitrust, oggi sottosegretario alla presidenza, dicendogli scriviamolo assieme in modo che sia perfettamente aderente. Presidente, io lo devo interrompere perché, siccome gliene do atto, e questa è una delle ragioni per cui è uno dei miei interlocutori abituali, insomma non è l'avvocato De Silla, per capirci, per fare un altro nome. Comunque vedremo il provvedimento come esce oggi. Grazie all'avvocato De Nicola, grazie a Claudio Siciliotti, grazie a Alessandro Barbera. Appuntamento a lunedì. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto.